Cosa sei un po'? Lo scontate e scacciate il seduttor. Lo scontate e scacciate il seduttor. Mi manco un po', sorpiccio un po', per bondate, oh mio signor. Che ruina, ma mi schiena, sono promessa a te, donna. Lo scontate, andate. Mi manco un po', sorpiccio un po', per bondate, oh mio festina, mi schiena, sono pressa, tanto sono pressa, donna, donna. Ma c'è stella, c'è poverina, oh mio Dio, le batte il cuore, oh mio Dio, le batte il cuore, oh mio Dio, le batte il cuore. Pian pianin su questo seggio, siamo, siamo per aiutarti, misurarti il nostro cor, misurarti il nostro cor, misurarti il nostro cor. Ave faccio quello, ecco, era solo un mio sospetto. Cugina, l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo cerchio in ogni sito, e danzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo il peggio. Cosa vinto? Brutte stelle, ma meglio ancora. Onestissima signora, a capirlo pari peggio. Ora capisco come va. Giusti detti, maestra. Così per tutte le belle cose come va. Non si va tutte le loro. Non si va tutte le loro.